il sabato del villaggio. Il fiatone, non si corre mai per entrare negli studi, prima legge del giornalismo radiofonico. Ho fatto una corsa per entrare in studio perché ho stampato adesso la scaletta di RadioTube. Vabbè, non importa, mi faccio passare il fiatone durante la sigla di RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. La nostra sigla con le campanelle, quella di Natale. Ancora buonasera Daniele Bellasio. Buonasera Marta Cagnola, et Marta Cagnola e et di Bellasio, hashtag RadioTube. Oh, che bello. Oggi è quasi l'ultimo giorno di scuola. Insomma è l'ultimo giorno di diretta. No, di scuola, perché poi facciamo gli esami con il meglio di, no? Sì, facciamo... poi facciamo gli esami con il meglio di prossimi due. Abbiamo persino qualcosa di meglio. Sì, non solo il peggio oggi, di RadioTube. No, a me, io faccio un po' fatica a pensare all'ultimo giorno di scuola perché io sono poi in radio fino al 27, quindi... Ma io pure, se vuoi ci troviamo ogni tanto. Sì, sì, dal 21 al 27 io tutti i giorni, perché non abbandono gli ascoltatori, e già qualcuno dirà no, che ansia, sempre qua. Dal 21 al 27 io sono sempre qua. Ma no, che sono affezionata. Ma oggi di che cosa parliamo? Parliamo di tante cose. Parliamo di Natale, parliamo di quello che è successo nello sport, quello che è successo un pochino nella politica, che è successo, e anche successo che a Radio 24. Ma io, ma una cosa incredibile, abbiamo battuto la BBC, abbiamo... Sì, sì, ne parleremo, sì, abbiamo, cioè, abbiamo. Ci lui, stiamo intestando, esatto. Un successo, però, non dai, nostro. Insomma è casa. Certo. Dopo però, ne parliamo. Però abbiamo parlato nelle due ore del sabato del villaggio tanto di TV, perché io l'ho confessato, sai... A Natale si guarda la TV. Anche dai, divano, sì, 25, copertina. Qualche cinema sarai favorevole a quello, no? Sì, devo dire, io ne vado talmente tanto al cinema nel mio periodo lavorativo che per me non è, insomma, guardi fine la TV durante le vacanze, mentre gli altri vanno al cinema. Sì, gli altri vanno al cinema, non lo so, io già penso, guarda, mattina di Natale io faccio l'alba, finisco di lavorare a mezzogiorno, abbiamo un'ora con come Davide Babbo Paolini. Natale, tu lavori la notte come di Davide Natale. Paolini, abbiamo un po' di cose durante la giornata, poi io faccio il mio pranzo di Natale, un po' di partite a scala 40 con i miei nipoti, poi non vedo l'ora di mettermi lì un po' tranquilla a guardare un po' di TV con i nipoti, con i parenti, poi anche, così anche solo in sottofondo. Anche ma un po' non... di serie TV. Sì, ma non potrai guardare la serie TV che invece arriva un po' dopo. So che tu la stai aspettando tanto. Sono so molto che malato, c'è una crisi d'astinenza. So che il tuo, sì. Perché combacia, no, con la campagna elettorale presidenziale. Infatti lui in realtà non è una serie TV, lui veramente si è candidato. A parte che la realtà a volte per certi versi... Sì, ma infatti, allora... quasi è moderato lui. Sentiamo di chi stiamo parlando per non disorientare l'ascoltatore, che sa benissimo che da noi deve essere sempre un po' disorientato. Eccolo qua. It's a new day in America. Today, more people will go to work, return home to their families, and sleep more soundly than ever before. All because one man refuses to settle, putting people before politics. That man is Frank Underwood. America, I'm only getting started. America, I'm appena Frank iniziato, sono Frank Underwood. Non è Donald Trump, non è no, tutti ma quelli infatti che... è un Donald Trump. Però sai che ha creato stupore, perché l'hanno messo anche durante il dibattito, che c'è stato il dibattito repubblicano. Ed è Frank uno Underwood, spot... House of Cards. Esatto, ed è e lo spot di House of Cards è esattamente uno spot, perché per l'ospite di dopo, è purissimo per la campagna elettorale americana, quindi Frank Underwood arriva, torna Frank Underwood e House poi of Cards. Poi c'è questa ambiguità che non si capisce chi è il candidato. Sì, io sono ma a te non piace? Ma Claire sì, dovrebbe, no? Ma sì. Quella sana cattiveria. Sì, decisamente sì, dalla faccia si vede. Sì, la sana non cattiveria. Non la potete vedere come... La sana cattiveria. Fa parte di... Invece questa settimana è successa una cosa importante. Allora, per questa settimana è successa lavori. Una cosa molto importante, ma sai che non so se solo per gli addetti ai lavori, ma in generale secondo me è il segno di grande cambiamento. Ora, sì, ecco, diciamo che per ora forse più per gli addetti ai lavori, ma l'incontro scontro tra televisione e social network, noi ne parliamo da sempre, è avvenuto durante una puntata di Vai Report. Ne abbiamo un pezzettino per entrare in atmosfera. Mostriamolo. Ecco qua.

costretto a donare un sacco di soldi. No, ma lo bravi, farà molto bravi, volentieri. Bravi, bravi. Questa cosa è bellissima. Io lo ritwitto, cantano più o meno come me e quindi c'è anche una sorta di bravi. Solidarietà. Allora, sappi che lo spot l'avevi segnalato tu perché aveva vinto il premio della creatività e la classifica l'avevi mandato tu, ma non te ne eri accorto. Questo si dimostra che la mia età ormai è incipiente, come la mia capigliatura. Ma sì, detto allora, ciò, ultimo minuto, devi fare un saluto. Allora, noi abbiamo parlato di grandissimi allenatori, ma io faccio un saluto un po' così, nel mistero. Sì. Saluto tutti i top player d'Italia. Chi capisce, capisce. Vabbè, lui c'ha i suoi... No, ma perché oggi è stato l'ultimo giorno di scuola anche da un altro punto di perché vista, lui, no? Sì, ok. Vado allora, lì a scuola per sentirmi giovane. Tu invece chi saluti? No, allora io ho un augurio da fare molto, molto, molto particolare. Sì. Perché si dice sempre che Natale per i bambini, Natale per le famiglie, ed è vero, Natale, ed è vero. Ci sono tutte le luci, le cose. Il mio augurio di Natale è per le persone che lo passeranno da sole. Per le persone che non vedono l'ora che sia già il 27, il 28, il 29, anzi il 7 di gennaio, perché non ci siano più le feste. Ecco, e noi le abbracciamo. Auguro di Natale per queste persone che non vedono l'ora che sia passato e che invece possa essere bello anche per loro. Grazie a Filippo Aureggi in regia, grazie a Cristian Goldoni in redazione. Auguri Daniele, auguri agli ascoltatori. Auguri Marta!